Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera e benvenuti a questo appuntamento della finale di Coppa Italia. I petardi sono indirizzati nei confronti degli steward che adesso sono costretti a un fuggi-fuggi. Il bilancio di un sabato sportivo è pesantissimo. 3 feriti, di cui uno grave. Si sta trasformando veramente questa sera, gentili telespettatori, in una macchia di vergogna. Ciro Esposito, 30 anni, tifoso del Napoli, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi a 2 passi dallo stadio olimpico. E questa scena avviene sotto gli occhi del presidente del Consiglio Matteo Renzi e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Saranno arrivate 6-7 bombe carte, sono stato costretto ad allontanarmi. Un ultra della Roma è stato interrogato e sottoposto a provvedimento restrittivo. Forze dell'ordine, Napoli e anche la stessa Fiorentina e Lega stanno decidendo in questo momento che cosa fare. Malek Amsic va sotto la curva nord, va il capitano del Napoli, come richiesto in un primo momento a parlare con i tifosi. Mi sembra che una persona sia stata anche ferita, viene portata fuori. È un vigile del fuoco, sì. Le squadre del Napoli e della Fiorentina in qualche modo staranno effettuando esercizi in attesa di sapere se si giocherà o no nelle palestre all'interno dell'Olimpico. Ma pensiamo alla situazione di Amsic, allo stress. Il capo ufficio stampa del Napoli a Bardari ha detto che si gioca la partita, dunque Gianni. Italia, Italia, se ne sta. Queste sono immagini, Andrea, che purtroppo faranno il giro del mondo. Dove la vittoria? Presidente Pietro Grasso, con quale stato d'animo ha vissuto questo primo tempo? Ma devo dire che io sono stato più volte in procinto di abbandonare il campo. La tentazione di lasciare lo stadio probabilmente l'ha avuta anche quando è stato fischiato in modo oltraggioso l'inno di Mameli. Beh, certamente non è stato un esempio di, diciamo, di civiltà istituzionale. Come tutti oramai sanno, era la finale di Coppa Italia, doveva essere una partita di calcio, purtroppo si è trasformata in un incubo sugli spalti, i vertici dello sport italiano, della politica, impotenti di fronte alla violenza dei tifosi. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Marco Tardelli, campione del mondo, colonna portante della Juventus. Quando giocava alla Juve, anche lei ha vissuto momenti drammatici nella finale di Coppa dei Campioni dell'AISL. Ci sono stati là 39 morti, 600 feriti. Ha rivisto quell'incubo in qualche modo sabato? Buongiorno Tardelli. Buongiorno a voi. No, in qualche modo no, era una situazione totalmente differente. Sì. E non mi sarei mai aspettato. No. Ma lei cosa si ricorda di quella partita, quella dell'AISL? C'era stata molta confusione fra le forze di polizia, i tifosi che pressavano, non avevano aperto le porte, i cancelli per entrare in campo, insomma lì ci sono stati degli errori clamorosi. Senta queste parole, le parole di una madre che ha visto il figlio partire per seguire la squadra del cuore, la Juve, è la signora Beatrice Martelli, mamma di Franco, una delle vittime dell'AISL. Ho visto, c'era la televisione, dei bastoni che stavano facendo vedere delle immagini spaventose. Dico, Filippo, ma hai cambiato canale? Dico, vedo un qualcosa che non è della Juventus, insomma, non è di Bruxelles, penso. Salza, figlio mio, salza, va a vedere, si sbianca. Venite, che è lo stadio. E il cuore ci comincia, io e mio marito stavamo vicino, pian pianino. Sono andata a finire in ginocchio sul tappeto, perché io mi sono sentita morire. Mi meravigliavo che Franco non avesse telefonato, per tranquillizzarci. Perché? Zitta, fatto piano piano, sono andata lì al telefono. La prima chiamata ho cominciato a chiamare l'albergo. Allora dissi, mi raccomando, non partite prima di trovarlo, eh. Dice, signora, abbiamo fatto tutti gli ospedali. E io in quel momento è stato tutto quello stress, che ne so, so che sono svenuta. Non ci sono state parole, ho avuto la certezza di quello che temevo. Ecco, Tardelli, una testimonianza terribile. Ma anche voi, no, siete andati a parlare coi tifosi? È servito? Non è servito a niente. È servito, i tifosi della Juventus erano dall'altra parte, perlomeno una parte, non sono poi entrati in campo a, a cercare di creare problemi. Ecco, ieri, in questo caso era diverso. Certo, io... ieri Hamsik è andato a parlare coi tifosi. Secondo lei ha fatto bene o no? Ho sbagliato totalmente quando lei ha detto prima i politici impotenti in tribuna. Sì. I politici sono impotenti perché vogliono essere impotenti, perché potevano assolutamente fare qualcosa. Tanto, anzi, è stato accompagnato da quel che so, da quel che leggo sui giornali, dalla Digos, che fa parte dello Stato. Certo. Di conseguenza avrebbero dovuto far scendere, non so come chiamarlo, sì, il signore quello, che era... signore proprio no, che era seduto sulla ringhiera dello stadio, certo, farlo scendere e arrestarlo. Certo. Quella era l'unica cosa che avrebbero dovuto fare. Invece hanno dato un'altra volta la possibilità a queste persone di alzare la voce. Ecco, lei infatti ha detto, lo Stato non ha trattato con le Brigate Rosse, invece tratta con gli ultras e li mantengono. E questo è il cancro del calcio? Beh, questa è sicuramente una cosa... un cancro, una malattia importante del calcio. Sì. Penso che sia la peggiore. La peggiore. Ma se lei fosse stato allo stadio, sarebbe rimasto, sarebbe andato? Cosa avrebbe fatto? Ma adesso è molto facile. Adesso è facile dire, ma dirlo, come, certo, come politico io sarei andato via dopo, sì, quello che è successo, quando hanno cantato l'inno, certo, e tutti hanno fischiato. Io sicuramente sarei andato via. Come facente parte del calcio, non lo so sinceramente, non, forse sarei anche rimasto, ma come politico me ne sarei andato e non mi sono piaciute nemmeno le dichiarazioni del presidente Grasso, mi sembra, certo, che siano state molto soft. Senta Tardelli, ma che cosa si dovrebbe fare, cosa dovrebbero fare i club per combattere gli ultras? C'è qualche cosa di vero, al di là delle parole roboanti che usano tutti in questi casi? Ma come sempre, guarda, io ti faccio solo un esempio. La DASPO è iniziata nel 1989, insieme a sul modello inglese della Thatcher. Sì. Ecco, da quel momento lì in Inghilterra non è più successo niente. Le famiglie vanno allo stadio, si divertono, bevono, mangiano e fanno tifo, senza uno striscione, senza niente. In Italia sono passati 25 anni dove non è successo niente, anche lì. Nel senso che è rimasto tutto come prima. È rimasto tutto come prima, e hanno solo parlato, sia i politici, sia quelli addetti ai lavori, sia la federazione, la Lega, non hanno mai tentato di fare niente. O se l'hanno tentato, hanno tentato in maniera molto, molto leggera. Tardelli, ci abbiamo Emiliano da Pisa. Che scrive: 6 mesi a pane e acqua nelle miniere del Sulcis a scavare carbone, la pena minima per i facinorosi sportivi e non. D'accordo? No, ma io quelli che fanno, commettono questi fatti, li eliminerei da vedere le manifestazioni sportive. Basta, certo, finito. Se uno fa del male, rischia di ammazzare le persone. Io voglio sapere come fanno a entrare tutti i petardi nello stadio, come fa a entrare quel signore col megafono che parla nello stadio? Certo. Cioè, non c'è controllo. In non realtà. C'è controllo, non c'è niente. Ecco, per un tweet, in Inghilterra hanno dato 16 mesi a un tifoso alla, sì, strada. È un tweet molto, molto pesante, è stato. Sì, insomma, però insomma, dico, alla strage dove sono morti 96 tifosi, insomma. Non era molto carino. No, no, però, certo, però il problema, diciamo, il problema sempre... è che conoscono, che sanno che c'è la pena, che sanno che ci sono, esatto, anche in alcuni stadi le carceri dove poter mettere i facinorosi, insomma, che non ci sono, fra l'altro, perché quando succede qualcosa, se uno sta seduto sulla ringhiera, come ha fatto quel signore lì, insomma, signore, sì, viene preso, viene portato dentro e basta. Senta, no, ma lei va allo stadio? Io vado allo stadio qua in Inghilterra, perché, sì, io vivo fra l'Inghilterra e l'Italia, sì, spesso, e vado allo stadio con grande tranquillità, perché quando passeggi per strada per arrivare allo stadio vedi i tifosi magari del Chelsea insieme a quelli del Liverpool che giocano la partita, e vanno tranquillamente, non ci, sì, sono risse. Non c'è quel sono... fanatismo, ma esasperato. Ogni tanto magari può capitare, sì, qualcosa per qualche ubriaco, ma non sì, per... Senta, ma Tardelli, i giocatori speculano un po' anche loro con il loro comportamento, sul comportamento delle tifoserie? credo di sì, lo facevamo anche noi, insomma, no. è sempre stato un errore, anche se devo ammettere, spesso ho litigato io con gli ultra. Però ogni tanto si usano, ogni tanto si va verso di loro quando si manifesta la gioia per il gol, invece si dovrebbe andare da un'altra parte. Non si ha il coraggio di dire quello che si pensa ogni tanto. Io credo che dobbiamo imparare anche noi, tutti insieme dobbiamo cercare di migliorare questo calcio, ma non a parole come sempre. Certo. Ho letto anche Abete che ha detto senza se, adesso bisogna iniziare a fare sul serio. Sì. Sono 25 anni che bisogna fare sul serio. Sì, certo. Senta, c'è Cristian da Milano, un attimo Tardelli. Cristian. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, dica. Io sto ascoltando un sacco di dibattiti in merito a quello che è successo sabato e molti riferimenti all'esempio inglese. Sì. Ma nessuno che abbia il coraggio di dire che la Coppa Italia di quest'anno andrebbe non assegnata o revocata come esempio da dare ai club per quello che è successo. Va bene, forse questa è una proposta intelligente. Che dice Tardelli? Sì, però poi la partita è stata una partita vera, non è che si possa dire che è successo qualcosa, l'arbitro è stato bravo, i giocatori non hanno fatto niente. Sì, è una cosa al di fuori del calcio, dice. Quindi. Sì. Senta, ma le curve però in realtà sono diventate uno sfogatoio sociale anche criminale, fuori controllo, mercato della droga, insomma, diciamo la verità. Beh, bisogna però cominciare a dire la verità, è quello il problema, cioè le parti che devono dire la verità la dicano, non che sento il presidente Grasso che dice quando è stato fischiato l'inno non è stata una grande dimostrazione di civiltà, bisogna dire è una grande dimostrazione di vergogna, è diversa la cosa, cioè se si nasconde sempre, se si minimizza sempre non si farà mai niente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Tardelli, si è detto che lei, ma serve la tessera del tifoso per esempio? Serve a qualcosa? Ma servono tutte le regole, ma se non vengono rispettate non servono a niente. Perché la DASPO esiste da anni ma non è rispettata. Io spero che Alfano adesso ha detto sui giornali, mi sembra, che la DASPO ha vita, speriamo che lo faccia. In Spagna, dice Tino da Biella, in Spagna per una banana sei radiato a vita, qui tratti con i delinquenti. Appunto. Ha ragione. Senta Tardelli, si era detto giorni fa che lei sarebbe stato candidato alle europee, contento di non essere entrato in politica? Ma io non mi sono mai sentito candidato perché in realtà nessuno è venuto da me a farmi una proposta veramente seria, di conseguenza... Per fortuna sono... diciamo. Ma per fortuna mi sarebbe piaciuto per il calcio o per lo sport in Europa, però io se me lo chiedono posso dare una mano anche in un altro modo, non essendo in Europa, non essendo in politica. Senta, comunque per chiudere, sostanzialmente il calcio italiano è prigioniero degli ultra, si può dire? Assolutamente. Qualcuno ha tentato di liberarsene, ma non ci sono riusciti. Non c'è la volontà vera. Ma qualcuno ha fatto veramente qualcosa di importante, ma insomma, probabilmente non è stato aiutato, perché questa non è più una cosa di Federazione Lega ormai. Deve intervenire il governo. Certo. Mario Secchi, una domanda. Buongiorno Tardelli. Buongiorno. Domanda secca. Il presidente del Consiglio Renzi pensa che siano le società a dover pagare l'ordine pubblico. Lei è d'accordo? Nello stadio sì. Io credo che qua in Inghilterra ci sono gli steward che vengono pagati dalle società. Però se gli steward non vengono rispettati è inutile. Sì, ma alla fine in Inghilterra vengono rispettati. Alla fine Tardelli, perché si va incontro e non li si manda in galera? La paura cos'è? Ci chiede Stefano Re, per chiudere. Perché? Non l'ho mai capito. C'è sempre stato un legame molto forte, perché le società hanno paura magari dei petardi, magari delle multe, perché le società purtroppo pagano milioni di multe all'anno per quello che accade nelle curve. E quindi hanno paura e di poi quello. Hanno anche bisogno, a volte sono stati sempre molto vicini, danno i biglietti, li pagano, gli striscioni, ci sono dei è un rapporto malato, molto malato. Grazie Tardelli, grazie. Prego. Per me è stato un gesto allucinante, non riesco a trovare una parola adatta, però io nel mio cuore non porto odio per questa persona, anzi chiedo a questa persona di ravvedersi. Era Antonella Nardi, la madre di Ciro Esposito, tifoso del Napoli, che ha rischiato di morire per un proiettile che gli ha perforato un polmone. Ecco, Claudio Lotito, buongiorno presidente della Lazio. Tanta violenza e tanto amore abbiamo sentito nella voce di questa madre, convivono anche nel tifo più brutale e più violento. È una lezione questa di questa donna, o come va presa? Buongiorno. Buongiorno, ma io penso che dal punto di vista dei sentimenti una madre parla con il cuore per il proprio, chiaramente per i propri affetti, e tutte le madri tendono chiaramente a tutelare i figli. Certo. Anche se non sono propri, questo è un atteggiamento corretto, un atteggiamento che suscita sicuramente stima, ecco, e considerazione. Ecco presidente, anche, io ne voglio è anche una visione un po' cristiana, no, del perdono, però sì. È altrettanto vero che poi in certi frangenti bisogna anche assumere una posizione del viver civile che serve a tutelare tanta gente che purtroppo si trova a subire determinate situazioni se in modo inconsapevole. Ecco, presidente Lotito, senta questa dichiarazione di De Laurentiis, il presidente del Napoli, alla fine della partita. Ecco, in quei lunghi 45 minuti, quando non si sapeva ancora se si poteva giocare, che cosa ha pensato del calcio italiano lei? No, in quel momento non ho pensato nulla, ho pensato soltanto a verificare con il prefetto e con il questore come praticamente creare le condizioni perché la partita fosse giocata, perché sennò sarebbe stata una sconfitta per tutto il calcio italiano e non solo. E devo dire che il prefetto e il questore sono stati straordinari e abbiamo risolto il problema anche con l'aiuto delle rispettive tifoserie, che sono state estremamente comprensive e collaborative. Ecco presidente, che giudizio dà di questa dichiarazione? Sei guarda, d'accordo lei? Non mi faccia esprimere giudizi sui miei colleghi, perché ognuno ha la propria filosofia di vita e di comportamento. Io la mia posizione è molto chiara, l'ho detto in tempi non sospetti, sono 10 anni da quando sono entrato in questo sistema che ho assunto una posizione chiara. Ecco, lei infatti dove ho fatto una distinzione, una linea di demarcazione tra la legalità, la gente deve fare una scelta, stare dalla parte della legalità o dall'altra parte. Ecco, perché diciamolo, scusi presidente, diciamolo con chiarezza, lei quando è arrivato alla Lazio ha trovato una curva violenta che voleva imporsi sulle scelte della società. Che cosa ha fatto per spezzare questo rapporto? Perché lei l'ha fatto. Beh, io ho eliminato il dialogo, il cosiddetto dialogo. Io penso che oggi ci sono qui due componenti. Una componente sociale o sociologica, chiamiamola, che va a investire soprattutto le giovani leve, i giovani, che vengono strumentalizzati perché non hanno più punti di riferimento e hanno una fragilità interiore, non c'è più un percorso formativo che era legato all'epoca, ai miei tempi, dal ruolo della scuola attraverso l'insegnante elementare che lavorava sinergicamente alla formazione del ragazzo. Ecco, ma lei questo rapporto come l'ha rotto? L'ho rotto, ho detto, non assumendo una posizione chiara di ruoli, di distinzione di ruoli. Cioè, ognuno deve fare il proprio. Se vuol fare il tifoso, il tifoso non può essere una professione. Cioè, non è che sulla carta d'identità c'è scritto professione e tifoso. Sì. Il tifoso significa appassionato, deve sostenere la propria squadra del cuore, la deve chiaramente supportare, sì, ma sì, nel rispetto delle regole. Ecco, lei che prezzo. Nel momento in cui il tifoso vuole sostituire il ruolo della società, ossia vuole condizionare e coercire la volontà della società nelle libere scelte, nel libero arbitrio, questo vale non solo per la società ma per chiunque, è chiaro che questo non va bene, non va fatto. Ecco, fa in violazione di... Ecco, lei, presidente Lotito, che prezzo ha pagato per questa sua scelta? Ma il prezzo è inutile, che secondo me farne un fatto di carattere personale. No, io penso vabbè, che questo insomma... è un problema, questo sia un problema di scelta, come dire, è la partita della legalità, uno deve fare una scelta e questa scelta, il prezzo chiaramente in questo momento in cui c'è una consuetudine, c'è un atteggiamento farisaico, mi perdoni, di sepolchi imbiancati pieni di ogni putridudine, tutti adesso in questo momento fanno esternazioni un po' finalizzate a motivi elettorali perché siamo in prossimità delle elezioni, un po', ma queste persone prima dove stavano? Certo. Ma non hanno, questa situazione è una situazione che è sempre esistita. Allora, o si ha il coraggio di assumere, come è successo in altri paesi, come in Inghilterra, come è stato fatto in Inghilterra, una posizione forte di rottura col sistema. Sì. che non vada a legittimare certi comportamenti, perché il vero problema è la legittimazione di questi ruoli. Senta, Presidente Lotito, ma secondo lei allora i vertici del calcio visti allo stadio l'altro giorno vanno rottamati? Ma non c'è il problema solo dei vertici del calcio, questo è un problema che riguarda il sistema paese, mi perdoni, le leggi... Da qualche parte bisogna cominciare, Presidente. Ma le dico subito, mi perdoni. Prego, mi prego. Per quanto, in un paese civile, nel momento in cui uno viola chiaramente un codice penale, deve subire delle sanzioni che sono previste al codice stesso. Ecco, ma se non capita... Se viceversa, in nome del consenso, no, viene considerata una zona franca il calcio... perché prima c'era il consenso e ancora adesso è rimasto il consenso elettorale, allora questo, perché quelle stesse persone lei le ritrova nei cortei delle scuole, nei cortei delle case, ho capito Presidente, e allora questo non è il problema del calcio, questo è un problema che stavo vinendo, che il calcio è diventato proprio questo potere mediatico, questa grossa capacità di coinvolgere moltitudini di persone, la cassa di risolarsi di una serie di problemi sociali che albergano quotidianamente nella società civile e soprattutto è endemica nel calcio, perché ci sono i fatti specifici che sono Presidente, lo spaccio delle sostanze su questi stupefacenti, la prostituzione, il riciclaggio, tutta Presidente, la serie di mezzo. Presidente, dato che stiamo parlando del calcio, lei ha spiegato il rapporto fra il calcio e la società, ma le società intanto che cosa devono fare per forza? Per questo sono partito dal chiederle... Devono mettere in azione due azioni. Un'azione preventiva attraverso chiaramente la diffusione nei giovani dei valori dello sport, che sono il rispetto dell'avversario, il superamento di secca di carattere sociale, culturale e razziale, la valorizzazione del mezzo, le società. E questo ha un processo di formazione che ha dei tempi nei giovani, perché stavo dicendo, i giovani oggi, non avendo più punti di riferimento, hanno una crisi di identità, non avendo un substrato, perché una volta c'era che concorreva alla Presidente, loro formazione. Presidente, scuola, questo l'ha già detto. Gli oratori. L'ha già detto, Presidente, questo l'ha detto. Stavo dicendo, questo determina che cosa? La rottura tanto per i giovani. Bene, io le ho chiesto, poi, Presidente, altri, le società, Presidente, però... Tolleranza zero, Tolleranza zero, tolleranza zero, diceva Tardelli prima, lo Stato non trattava con le BR e invece abbiamo visto andare a trattare con un capo ultra. Allora, questo è il punto anche. Stavo dicendo, proprio perché, torno a dire, si legittimano certi ruoli, non si tratta di trattare o non trattare. Beh, si tratta qualcosa... di questa gente, come al tempo del Colosseo, c'era l'imperatore che tutti aspettavano, va bene, che tirava il pollice. Francesco da Parma. Francesco, buongiorno. Buongiorno, dica. Senta, io conosco bene il mondo degli ultra. Sì. E spesso sono menzionati dai presidenti, non so se anche il presidente Lotito lo fa, pagano i biglietti, pagano le trasferte. Vabbè, ci sono anche quelli che non lo fanno. Certo, però quando una società difende anche lo stesso calciatore che dà una gomitata a un altro, e invece di poca sportività alla base del calcio, è alla base, e con questo non si educa sicuramente i giovani che vanno Va in bene, fuori. Grazie Francesco. Senta, Presidente Lotito, dice Ale da Monza, Fassino fa il dito medio ai tifosi del Toro, è il capo, è uno dei capi del terzo partito italiano. Allora, secondo lei, se lo stadio è lo specchio della nostra società, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le persone devono avere sempre coscienza di quello che fanno e dei ruoli che ricoprono, e di non confondere, le stavo dicendo, il tifoso come appassionato che viene onnubilato nei comportamenti, per il nome di si dice sempre si cambia una moglie, non si cambia la propria squadra del cuore, no? E questo però, io ho sempre detto, quando lei dice che cosa ha fatto, io ho sempre fatto il presidente tifoso e non il tifoso presidente. No, ma questo lo sappiamo, l'abbiamo invitato per questo, perché è stato un presidente. Perdoni, che significa? Significa che le persone in nome del tifo non possono poi, come dire, dimenticare il rispetto del vivere civile e il rispetto delle regole. Questo è il problema. D'accordo. E per farle rispettare bisogna chiaramente dare certezza della pena, processi per direttissima, inasprire le pene, perché bisogna distinguere tra i tifosi e i delinquenti. Presidente, questo l'ho capito. Una domanda finale, perché siamo in chiusura, da Mario Secchi. Eccola qua. Allora, lei, se avesse visto un suo giocatore andare a trattare in curva con Genio Carogna, cosa avrebbe fatto? Non l'avrei consentito. Mix 24. Il gioco dei segreti, degli occhi addolorati, dei nostri abbracci muti, tu stai guardandomi, tu stai pensandomi, tu stai cullandomi. Rientriamo nella poesia con Pietrangelo. No, è che stamattina in metropolitana ho incontrato una fattucchiera, ha attaccato bottone e mi ha spiegato che nel preciso momento della canzone, giusto questa canzone Intimità di Paolo Conte, chi ascolta dalla macchina, per esempio, non può che ascoltare l'illusione e guidare cullandosi dell'illusione, grazie a Paolo Conte. Tu stai pensandomi, tu stai cullandomi. Oggi la nostra quota rosa che fa? Questa mattina pensavo, che stress, non nostro Giovanni, pensavo a Renzi, dico, perché è pieno di scadenze questo ragazzo, adesso deve pensare anche al calcio, però una scadenza tenevo proprio a ricordargliela io. I sogni son desideri. Nel giro di un anno si è detto, l'accordo sulla legge elettorale è possibile. L'accordo sulla legge elettorale è vicino. L'accordo sulla legge elettorale sta per essere raggiunto. L'accordo sulla legge elettorale? Anche stasera. L'accordo sulla legge elettorale? Anche domattina. L'accordo sulla legge elettorale è a un passo. L'accordo sulla legge elettorale? In due ore. Mai vista tanta coerenza. Il sogno realtà. Ovviamente parlavo dell'Italia. Ma avevamo capito anche noi, bene. Cara Sara. E cosa bolle in pentola, Mario? Oggi sigla. Il soldato russo è valoroso, stoico e paziente. Per questo è invincibile. Vogliate bene ai vostri soldati russi. Urrà! Urrà! Urrà! Urrà! Allora, il Barbiere di Siberia, grande Michalkov, grandissimo film. Per dirvi cosa? Che l'Ucraina è sempre in disordine. Piuttosto grosso, tanto, direi, comincia a essere grosso, si vedono tutte le inefficienze, ma d'altronde se giochi a fare la rivoluzione, come dico sempre io, devi essere pronto poi ad affrontarne anche le conseguenze, tanto. Quindi tutte le inefficienze dell'Europa in particolare e degli Stati Uniti, a me è una scarsissima visione di quello che sarebbe successo, e le sanzioni, caro Giovanni, sono minacciate. Minacciate. Anche perché se volessero come fermare... negli stadi. Come negli stadi. È così. È così. Parole. Bla bla bla bla bla bla bla. La verità è che se volessero congelare gli asset dei russi all'estero non sarebbe neanche difficile. Basta andare a Cipro e tu trovi 150 miliardi di dollari dei russi. Vai in Olanda e ne trovi altri 64. Vai nelle British Virgin Islands e ne trovi altri 46. Vai in Svizzera e ne trovi circa 12. Negli Stati Uniti circa 11. Nel Regno Unito siamo a 10, in Lussemburgo 9, in Germania 9, in Austria 7, alle Bahamas 6. Cioè, questi grandi russi in Italia manca una lira? Te credo, c'è Equitalia qua. No, ma insomma, per dire però cosa... Però i russi vanno tutti all'outlet, ho scoperto. Vanno all'outlet. Non depositano. Cari amici, non la verità è che hanno un ammontare di cash straordinario, infatti, come avete visto. C'è stata una grossa fuga di capitali, infatti Putin sta cercando di far tornare in patria un po' di soldi, circa 50 miliardi negli ultimi mesi. Tutti questi soldi ovviamente diventano ulteriore cash, cassa, investita nei paesi dove vanno a fare gli acquisti. Chiedete ai commercianti italiani, soprattutto nel settore del lusso e non solo, ristorazione e così via, vedrete cosa vi dicono. Volete fare le sanzioni? Fatele. Saranno un boomerang alla fine della fiera, come suol dirsi. Te la ricordi questa, Giovanni? Me la ricordo. Cos'è? Era una fase di Vanetto in nave. Buttafuoco. Questa era Love Boat. No, lui andava a Remi, non andava. No, come diceva la buonanima di Benito Paolone, si fa l'amore sugli alberi. Appunto, qua è Remi. Altro che divanetto. Siamo in Italia comunque, anche se la canzone è inglese, nel senso che noi partiamo adesso con un round di privatizzazioni molto importante. Fincantieri dovrebbe andare in borsa entro l'estate, è un gioiello italiano. Sì. 49% andrà sul mercato, 1,5 miliardi di euro di incasso previsto. Parliamo del quarto costruttore di navi al mondo, molti non lo sanno e ignorano questa. È una grande questa eccellenza capacità, italiana. Questa sì. capacità italiana ha in portafoglio 12 miliardi di euro di ordini, 20.000 dipendenti, 21 siti produttivi nel mondo. Una grande azienda. Grande azienda, dobbiamo esserne orgogliosi. Certo, se fosse tutto così sarebbe meglio. Salamino. Il mistero di Marina Berlusconi. Oggi sul Corriere della Sera Giovanni Toti, intervistato, si dà l'aritmetica e nell'immaginare quello che succederà dopo le elezioni europee, quando immaginiamo ci sarà una bella bastonata al fronte moderato, dice bisognerà poi mettersi insieme tutti sul nome di Marina Berlusconi. E leggo poi sulla Stampa un interessantissimo articolo di Amedeo La Mattina che pone la questione di tutte le questioni. Il mistero di Marina Berlusconi. Cioè l'aspettiamo, la evochiamo, tutti ne parlano, però c'è un fatto. Nessuno conosce la sua voce. Su YouTube, per esempio, non esiste un video dove la si possa sentire live, come dicono quelli colti con le scuole alte. E allora, nell'evocarla, nell'aspettarla, nel capire perché mai non si conosca la voce di questo futuro leader che tutto il mondo attende, siccome i poveri di spirito hanno sempre Marina, noi invece con Giorgio Conte abbiamo Marina Vladimirovic. Una bella bionda. Oltretutto c'è Vladimir che è pure Putin. Insomma, le alleanze sono garantite. Via con Marina! Porco Giuda, sei un genio. Pensa un po' che anch'io pensavo a Marina Vladimirovna. Da ragazzo la sognavo una figa madornale. Vi ricordate che proprio oggi, 6 maggio del 52, moriva Maria Montessori? Bene, nella seconda ora di Mixer raccontiamo la sua storia, curata come sempre da Marina Milone. Ciò che muove il bambino all'attività è un impulso interiore primitivo, quasi un vago senso di fame interna. Ed è la soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco ad un complesso e ripetuto esercizio dell'intelligenza nel comparare, giudicare, decidere un atto, correggere un errore. Canzoniere! Topolino, dalla testa svanita, aveva preso la via dell'aceto e con gli amiconi della propria comitiva faceva una vita scialacquata. Lo zio cercò di riportarlo alla buona strada, ma fu come zappare nell'acqua, perché ormai era trevioluto e per di più aveva già leccato la sugna ed si era fatto esperto di taverna e di peccato. Finalmente la gatta lo scovò e lui gridò zio, ma rammaricato dal profondo lo zio disse... 800 24 0024, numero verde 349 238 6666. Se lo sapete, rispondete. Viabilità. Mix 24. Allora, un po' di revival con gli ABBA stamattina abbiamo non fatto, male. Giovanni, not bad. Allora, perché Moni? Perché se parliamo di monetine, hai presente quei fastidiosissimi 1-2 centesimi che quando li hai ti si incastrano nelle tasche, non riesci a tirarli fuori, nessuno tra l'altro te li accetta, insomma, un disastro. Non si sa cosa farne. Bravo, Però i costi di fabbricazione superano il valore reale. È in discussione alla Camera una mozione che dovrebbe impegnare il governo, l'ha fatta Sell, uno dei primi firmatari, per onore di cronaca questo, e insomma chi dice ma perché continuate a coniarli che sono un fastidio? Guarda, ti dico sta cosa che è divertente, un centesimo in realtà coniarlo costa 4,5 centesimi. Una moneta da 2 centesimi costa 5,2 centesimi. Ciascuna moneta da 5 centesimi costa 5,7. Insomma, un disastro, per non dire un'altra parola. Non conviene tanto. Allora, la zecca avrebbe fuso oltre 2,8 miliardi di monete da un centesimo. Per un totale? 362 milioni di euro di costo a fronte di un valore reale di 174 milioni. C'è qualcosa che non va. In Finlandia e in Olanda hanno già bloccato il conio di queste monete. Si chiede di bloccarlo anche in Italia. Forse conviene. I tedeschi si oppongono, a dir la verità, tanto per cambiare anche su questo, perché nel mercato tedesco in realtà le chiedono. Ci sono anche delle controindicazioni, ne faccio una. Per esempio, porterebbero all'arrotondamento del prezzo al rialzo, cosa che in realtà in Italia si fa lo stesso. Già avviene, quindi dicono fa inflazione. Molte associazioni benefiche dicono però quei piccoli centesimi a noi ce li donano, avremmo un danno. Non lo so, io sono per levarli dal mercato. Leviamoli poi, dal mercato. Poi come sempre, open mind, mente libera, il mondo è grande. E intanto noi abbiamo due ospiti al telefono. Ospiti fissi in studio, oggi. Dudu e Aiace Telamonio, i cani di Berlusconi e D'Alema. Felice ciascun sarà. Ecco, dunque ancora una volta ospiti graditissimi, Dudu e Aiace Telamonio. Allora, Mario, come ogni giorno, una domanda. Sono prontissimo, ho solo un dubbio. Dimmi qual è il dubbio. Ma può parlare oggi Dudu? Pare di sì. No, sì, perché ha detto che può perché parlare. Il certo. Suo padrone... sta fuori dalla concorrenza proprio oggi, sta parlando lui. Che se fa? Può parlare, fagli la domanda. Appunto. Ma allora io voglio una domanda un po' personale del clan, insomma, della famiglia, del cerchio magico, chiamatelo come volete. Ma perché Fitto è così arrabbiato? Ma non vanno più insieme al parco? Non riesco a capire. Prego, Dudu. Sì. Grazie. Allora, dice Dudu che intanto può parlare, che lui non ha padroni, semmai un papi. Papi. E poi dice che per quel che riguarda Fitto, il caro Raffaele si è sempre dimostrato un ottimo... Sì, grazie, perché non capivo, è un problema di traduzione, malgrado certo. La scuola alta, certe cose mi mancano. Dunque dice che Raffaele è un perfetto... com'è che ha detto? Ah no, al contrario, è Dudu che è un perfetto fitto sitter, ecco. E lo porta al parco. È affittuoso. E lo porta al parco dove incautamente la Boschi ha fatto lo spot, quello delle frittelle. Vabbè, dai, senti, invece io da Iace. Ad Iace, sì. Iace vorrei sapere se il dito alzato di Fassino contro i tifosi del Torino... elimina un concorrente per il suo padrone, per il Colle. Grazie. Se tosto, Aiace Telamonio dice che apprezza molto le tue domande, il tuo stile, la tua qualità ancora professionale. Quello è un ma giovane... solo a minori le dice queste cose. È un giovane pioniere e sa il fatto suo. Scusi, può ripetere? Sì. Dice che però ha difficoltà di parola oggi. Ha difficoltà di parola. Sì, come mai? Perché gli è rimasto da masticare ancora il dito di Fassino. Dopo il polpaccio di Friedman. Perché lui ha apprezzato, com'è che diceva? Sì. La lungimiranza di De Benedetti nell'averlo indicato come capo dello Stato, e il risultato è stato che adesso si sta affucando nella strozza. ecco, sì. Aia, sì, sì, la voce sta, poverino, sta diminuendo. 800 24 00 24, se avete la risposta al canzoniere o altre domande, 349 238 6666. Intanto, professor Simonelli, abbiamo un minuto e mezzo, ci dica dove era il canone. Lo sapeva Adriano Celentano tanti anni fa. Non ballo il tango con te. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Allora, professore? Allora, non abbiamo ballato il tango. Ieri sera ci aspettavamo il tango da Cruciani e da Mico verso le 11. Non è andata? Su Sky, ma più che un tango, sa quella canzone di Rita Pavone, Il ballo del mattone? Io ti dico che sei bella abbracciati sulla stessa mattonella. Mi è sembrato che quel promo che ci aveva promesso... Sì. Scontri, insomma, l'aggressività che è insita un po' in un ballo di tango. Niente. Invece si è un po' dissolta. Si stavano studiando, si studiano, sarà per la prossima puntata. Corretto, serio, un ospite molto per bene. Due professori. Tutto l'opposto di quello che ci aspettavamo. Ci hanno sorpreso. Oggi nella storia, a cura come sempre di Marina Milone, raccontiamo la rivoluzione di Maria Montessori nel mondo della pedagogia. Una grande donna anticonformista che ha inventato un metodo didattico che ha fatto storia nella formazione di classi dirigenti in tutto il mondo. Canzoniere, non abbiamo avuto risposte. Dillo, chi è? No, proseguo. Lo teniamo. Allora... Pubblicità.